Buongiorno a tutte e a tutti, grazie della vostra presenza. Come tutti i lunedì, cominciamo questa diretta che durerà circa mezz'ora. La diretta la potrete seguire sulle pagine Facebook mie, quella personale e quella pubblica, sulla pagina Facebook di Medicina Democratica. Ovviamente sulla pagina di 37 e 2, sulla pagina di Costituzione Beni Comuni e di Arci Ponte di Memoria. Con me stasera c'è Cora Ranci che raccoglierà le domande e cercherò di rispondere. Però stasera è una situazione un po' particolare. Dedicheremo tempo a parlare del vaccino. Siamo bombardati di notizie, spesso contraddittorie, difficili da interpretare. Il tema del vaccino è complicato. Io vi chiedo per favore, lo dico spesso, ma stasera lo dico con una certa insistenza, di condividere questo video perché è difficile avere informazioni sul vaccino e farò del mio meglio per riuscire a spiegarmi. Quindi vi invito proprio a condividere perché non possiamo rispondere individualmente a tutti quelli che ci fanno le domande, in particolare su questo tema che non si può rispondere per email, è complicato. Allora, provo a ricapitolare qual è la situazione sul vaccino anti-Covid. Prima cosa, i vaccini contro i virus si possono organizzare, produrre in modo differente. O si inocula il virus intero, ma ucciso, o inattivato, in modo che non si possa replicare, oppure si introducono delle piccole parti del virus che vengono inserite dentro un veicolo che le trasporta. Noi in questo momento abbiamo 5 vaccini che sono in fase 3. Due vaccini vengono dagli Stati Uniti. Uno viene dall'Europa e poi abbiamo un vaccino russo e un vaccino cinese. L'obiettivo di tutti questi 5 vaccini è quello di trasportare la proteina Spike, ovvero quella parte che ricopre il coronavirus e che si attacca, che aggancia le nostre cellule, in modo tale da creare anticorpi contro questa proteina del virus e quindi impedire poi l'arrivo del virus e quindi che il virus possa infettare le cellule. Questo è l'obiettivo. Abbiamo però di fronte due metodologie diverse. Una che è quella portata avanti dal vaccino Pfizer e da Moderna, che utilizzano quello che viene definito un RNA messaggero, cioè una nanoparticella, la quale poi, una volta entrata, sviluppa la proteina Spike. Questi vaccini, sto parlando quindi di quello di Pfizer e quello di Moderna, sono stati recentemente pubblicizzati sostenendo che hanno un'efficacia superiore al 90%. Ci sono però alcuni problemi. Quello del Pfizer va conservato a meno di 80 gradi e quello di Moderna a meno di 20 gradi, ma può essere distribuito a 5 gradi. Abbiamo poi gli altri tre vaccini. Uno è quello prodotto da AstraZeneca e l'altro è quello cinese e quello russo. Vi chiedo di condividere questo video perché adesso parleremo degli annunci dati oggi pomeriggio proprio da AstraZeneca o Oxford, è lo stesso vaccino. Cosa hanno fatto? Hanno lanciato una comunicazione dicendo: attenzione a cosa dico, il vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'Università di Oxford, cioè AstraZeneca, è altamente efficace nel fermare nelle persone lo sviluppo dei sintomi. Allora, di cosa stiamo parlando? Di un vaccino che, secondo l'azienda, aveva inizialmente un'efficacia del 70%. Con due dosi, tutti questi tre vaccini, due di cui ho parlato prima e questo, hanno due dosi che devono assur essere assunte a distanza di alcune settimane. Quello di AstraZeneca aveva un'efficacia del 70%. Poi hanno detto oggi, se diamo una dose a metà e una dose intera, l'efficacia arriva a superare il 90%. La stessa azienda che ha comunicato l'efficacia di questo vaccino non è in grado di spiegare perché se arriva al 90% e più di efficacia con mezza dose e poi una dose intera, piuttosto che due dosi intere. Ma questo è il dato di fatto. E aggiunge che questo vaccino è più facile da conservare perché può stare a temperatura ambiente ed è molto più economico degli altri due vaccini. Oltre a questo, abbiamo un vaccino cinese della CanSino per cui è necessario un'unica dose, non ha bisogno di richiamo. Allora, questo vaccino cinese è stato registrato in Cina ed è già utilizzato sul personale sanitario. Poi abbiamo lo Sputnik 5 russo, testato su 16.000 volontari e dicono che ha una protezione del 92%. Questo è il quadro. Proviamo però a fare qualche ragionamento. Allora, finita la fase 3, ci vuole l'approvazione in Europa dell'EMA e negli Stati Uniti dell'FDA. Solo dopo questa approvazione i vaccini possono entrare in commercio sul mercato. Ma anche quando entrano in commercio sul mercato c'è quella che viene definita la fase 4, e cioè un controllo dell'efficacia dei vaccini mentre vengono somministrati a una popolazione aperta, cioè ai cittadini. Ci sono però un po' di problemi. Primo, questo annuncio continuo e successivo, uno dopo l'altro, delle tre aziende occidentali ha a che fare anche con una gara, una concorrenza fra di loro che si sviluppa su due terreni. Uno è quello della finanza. Ogni annuncio porta a un aumento in campo finanziario di valore delle loro azioni. Secondo, ogni annuncio stimola i governi a finanziare quella ricerca e a preacquistare milioni e milioni di dosi. Questo non possiamo dimenticarlo. Altro problema che si pone: ad oggi noi non abbiamo alcuna documentazione scientifica pubblicata su riviste internazionali che spiega i trial, il disegno di ricerca di questi stessi vaccini. Finora abbiamo unicamente i comunicati stampa delle agenzie che con squilli di tromba uno dopo l'altro annunciano i loro progressi, ovviamente sempre cercando di scavalcare l'azienda che ha fatto l'annuncio il giorno precedente. E abbiamo tutti i media che riportano le notizie semplificandole e amplificandole e permettetemi, senza andare a cercare di capire qual è esattamente la situazione. A ciò si aggiunge che siamo di fronte al fatto che questi vaccini sono in fase 3, che la fase 3 non è ancora terminata, che la fase 3 normalmente dura dai 2 ai 4 anni e per quanto ci possano essere dei meccanismi di accelerazione dovuti alla situazione della pandemia, una fase 3 che dura solo qualche mese o solo qualche settimana, beh, deve essere passata al microscopio attentamente da parte dell'EMA e dell'FDA. Dobbiamo essere certi non solo dell'efficacia, ma anche della sicurezza del vaccino. Personalmente, quando ho letto le dichiarazioni di Crisanti, non mi sono stupito. Il professor Crisanti ha detto: bisogna vedere il disegno del vaccino, come la ricerca è stata condotta. Ma questo, aggiungo stasera, ecco perché vi chiedo ancora di condividere il video, un'altra questione. Corriere della Sera, 20 novembre, 3 giorni fa. Intervista al responsabile della sperimentazione sui vaccini dell'azienda americana Moderna, uno dei primi due vaccini di cui ho parlato, quello che utilizza l'RNA messaggero per poi produrre la proteina Spike che quindi poi provoca la reazione degli anticorpi. State a sentire che cosa dice il responsabile di Moderna. La domanda è: il vaccino sarà efficace anche per prevenire la trasmissione del virus? E la risposta è questa, la leggo tutta. Per il momento sappiamo che il vaccino previene l'insorgere della malattia, cioè lo sviluppo dei suoi sintomi. Dobbiamo ancora capire se potrà prevenire anche l'infezione e quindi evitare che ci siano persone vaccinate che contraggono comunque il virus, rimanendo asintomatici e potenzialmente contagiosi per gli altri. Penso che avremo qualche risposta nei primi mesi del 2021. Le aziende non spiegano esattamente come funziona il vaccino, ma anche il comunicato di oggi, a leggere attentamente quello di AstraZeneca, dice che questo vaccino è altamente efficace nel fermare lo sviluppo dei sintomi. Allora, uno dei punti di domanda fondamentale che dovremo andare a vedere quando finalmente pubblicheranno i dati sulla ricerca è questo, e cioè: questi vaccini funzionano perché bloccano lo sviluppo dei sintomi e quindi l'evoluzione verso la patologia in stadio avanzato e quindi verso il decesso, o riescono anche a bloccare la trasmissione del virus? O è possibile che ci siano persone vaccinate che diventano positive e però non evolvono? E la domanda conseguente è: qualora fosse così, e con la documentazione attuale questa è un'ipotesi, le persone vaccinate che diventano positive e che non evolvono, potranno però a loro volta trasmettere il virus e l'infezione? Non ho una risposta da darvi, ma i punti di domanda sono tanti e uno è questo. E devo dire che il manager di Moderna lo esplicita molto chiaramente, perché dice: dobbiamo ancora capire se potrà prevenire anche l'infezione e quindi evitare che ci siano persone vaccinate che contraggono comunque il virus, rimanendo asintomatici e potenzialmente contagiosi per gli altri. E dice: lo scopriremo entro il 2021. Allora, qual è il mio intento stasera? Non abbiamo tutte le spiegazioni, ma non le ha nessuno perché non hanno pubblicato i dati. È quello di dire: non precipitiamo, non pensiamo che la soluzione del vaccino sia a due passi. Teniamo presente che quello di cui discutiamo sono solo e unicamente gli annunci delle aziende che stanno vendendo e cercando di collocare sul mercato la loro merce, che deve essere ancora analizzata da EMA e da FDA prima di dare l'autorizzazione, e che si portano ancora dietro tanti e tanti punti di domanda. Dopodiché, che i media lancino grandi inni di gioia, che i governi progettino già l'utilizzo dei vaccini, purtroppo fa parte del gioco politico-mediatico attuale. E il continuare a dire che il vaccino è arrivato, che siamo a un passo, ovviamente solleva i politici dalle loro responsabilità. Io mi auguro che siamo nella situazione che annunciano le aziende, ma dovremo andare a vedere concretamente che cosa hanno fatto finora e qual è la ricerca che hanno condotto. Detto questo, nel caso in cui il vaccino comunque arrivi, ipotizziamo anche che sia disponibile già a gennaio, anche se magari funziona nel fermare e bloccare i sintomi, ma non nel bloccare l'infezione. Ma comunque un passo avanti sarebbe grosso. Poi c'è il problema di vedere se possono comunque trasmettere il virus o meno. Ma anche qualora il vaccino, scusate, arrivi a gennaio, sia disponibile a gennaio, i tempi di produzione, di trasporto, di organizzazione della rete distributiva e soprattutto i tempi per avere una quantità tale per poter vaccinare milioni e milioni di persone nel nostro paese sono tempi lunghi. Non creiamo illusioni che arriva il vaccino a gennaio e che nel giro di 2 mesi tutto è risolto. Detto questo, mi auguro che il governo proceda con una rete di distribuzione, di preparazione precisa al millimetro. Perché se abbiamo fatto e stiamo facendo delle figure pazzesche sul vaccino influenzale, che si ripete ogni anno, con i comportamenti delle regioni che abbiamo visto, la mancanza di vaccino antinfluenzale, uno si domanda, ma qui che parliamo di un vaccino che deve avere un richiamo e quindi vanno rispettati i tempi ad personam per ciascuno nel richiamo, che deve essere distribuito in una determinata modalità, con certe temperature, ci vuole un'organizzazione precisa. Allora, non, attenzione alla pressione politico-mediatica, azionaria e finanziaria che rischia poi a un certo punto di far fare dei passi veloci che possono diventare controproducenti. Non voglio essere Cassandra, non sto negando il percorso di sviluppo, ma siccome probabilmente qualcuno di voi sa che ho scritto un libro, Lo scandalo del vaccino italiano sull'AIDS, quando per 20 anni ci hanno detto che il vaccino c'era e poi invece non c'era, e hanno fatto confusione tra il vaccino vero e un vaccino terapeutico che serve per le persone già malate, allora qualcosa ho imparato, allora vado coi piedi di piombo e dico attenzione ai passaggi, attenzione agli interessi che ci sono dietro. C'è una domanda che mi sembra estremamente appropriata e ringrazio chi l'ha fatta e dice, quindi se fosse così è più una cura? Se fosse così è più una cura, ma non lo sappiamo, per ora non si sa. Mi ha acceso il punto di domanda la vicenda passata del vaccino italiano sull'AIDS, che appunto poi alla fine era potenzialmente una cura ma non un vaccino, l'intervista del manager di Moderna e il titolo del lancio di oggi che dice per fermare i sintomi. Quindi dobbiamo aspettare le pubblicazioni scientifiche. Su questo non posso dire di più, sarebbe scorretto. Chi verifica? Mi chiedete, verificano due strutture nel mondo occidentale, la Food and Drug Administration negli Stati Uniti e EMA, cioè l'Agenzia sul Farmaco in Europa. Sono agenzie autonome, però come ho spiegato tante volte rispetto all'EMA, che è quella che ci riguarda europea, loro analizzano la documentazione che è presentata dalle aziende. Non sono dotate, almeno EMA non è dotata di fondi autonomi per poter andare a riprogettare un trial più breve per vedere se corrisponde quello che hanno dichiarato le aziende. Ecco, io vi suggerisco di condividere perché queste sono informazioni che non trovate. In una trasmissione di Radio Popolare abbiamo analizzato 37.2 attentamente questa questione, perché paradossalmente EMA funziona in gran parte coi finanziamenti che arrivano dalle stesse aziende farmaceutiche, pur essendo un organo indipendente. Dopodiché ci dobbiamo fidare. L'importante è che analizzino passo per passo tutto quello che è stato realizzato. Qui mi si chiede chi decide che vaccino faccio. Sarà il vaccino con quando ci saranno questi vaccini, se ci saranno, non è che ne arriveranno 10 e uno sceglie, arriveranno quelli con cui l'Italia ha fatto l'accordo. E prima di tutto questo qui di AstraZeneca. Però dipende perché poi è come i cavalli al trotto, le aziende, l'ho già spiegato, anziché andare a chiedere che l'Organizzazione Mondiale del Commercio cambiasse i brevetti e che non fosse il monopolio, il vaccino dell'azienda che lo produce, che ha il monopolio per 20 anni, anziché andare a chiedere questo, e andare a chiedere che, certo, l'azienda farà i suoi profitti, ma in un equilibrio con la distribuzione, e che fossero coinvolti tutti i governi, tutti i paesi, tutte le aziende nella distribuzione, di questo non è accaduto nulla. I governi hanno rincorso le varie aziende come in una gara di cavalli, puntando su un vaccino piuttosto che l'altro, e ogni volta che c'è un annuncio stanziano milioni per dire io prenoto queste dosi in concorrenza con l'altro. Inutile dirvi che nonostante il comunicato di pura immagine e di nessun effetto concreto del G20 che si è concluso poco più di 24 ore fa, tutto il sud del mondo rimarrà almeno per una prima fase senza vaccino, anche qualora da noi dovesse arrivare. Mi si chiede perché si è abbandonata la via degli anticorpi degli ex malati? Domanda estremamente importante. Ne abbiamo trattato a Radio Popolare e a 37.2, e la persona, il medico che dirigeva questa ricerca è stato molto chiaro una volta che ha parlato, diciamo, in libertà. Ha detto: avevo presentato un progetto di ricerca per andare a sperimentare che cosa accade attraverso la donazione di plasma iperimmune da persone che sono guarite, e i risultati erano buoni. Ho avuto dallo Stato, dalle agenzie nazionali, una enorme difficoltà nel riuscire a costruire questo percorso che dovrebbe finalmente partire coinvolgendo diversi centri in tutta Italia. La domanda è: in questo, diciamo così, mancato appoggio, conta anche il fatto che quelle donazioni sono gratuite e che invece da altre parti le aziende stanno andando a produrre anticorpi monoclonali e quindi un prodotto artificiale, chimico, che invece avrà costi altissimi? Non so rispondervi. Io mi limito a dire che quella ricerca ha avuto difficoltà a partire, dall'altra parte c'è un interesse di mercato molto molto forte. Poi, ovviamente, c'è anche chi dice che il plasma iperimmune può servire, ma parzialmente. Ma la situazione è questa: le ultime notizie che avevo era che quella ricerca multicentrica doveva partire definitivamente entro la fine di novembre. Allora, c'è chi mi chiede: pensi che abbiano testato i presunti vaccini anche sulle persone, per esempio, che hanno patologie cardiovascolari, che come si sa rendono le persone più esposte a conseguenze gravi? Beh, devo dire che chi fa le domande oggi è molto documentato. Questo è un altro punto. È uno dei punti che ha sollevato Crisanti, che poi è stato sommerso di critiche da tutti, cioè ha detto: dobbiamo vedere quali sono le pubblicazioni scientifiche su questi vaccini per capire su quali popolazioni sono state testate. Sono state testate su persone che hanno patologie cardiovascolari? Sono state testate su persone che hanno patologie croniche gravi? Perché? Perché le prime persone da proteggere, oltre agli operatori sanitari, sono le persone anziane con questo tipo di patologie. Ma se invece la sperimentazione è stata fatta su giovani che non hanno altre patologie, il punto di domanda diventa ancora più grande. Funziona su quelle altre fasce di popolazione che sono le prime che devono essere coperte? Ecco, anche su questo per ora non l'abbiamo. Una delle aziende ha dichiarato che l'hanno sperimentato su diverse fasce di popolazione, ma noi non abbiamo la documentazione e quindi dobbiamo aspettare, non noi, tutto il mondo scientifico non ce l'ha. E vedo che mi chiedete quali possono essere gli effetti collaterali, nessuno è in grado di rispondere perché le aziende ad oggi non hanno parlato di effetti collaterali e quindi non possiamo andare oltre, siamo obbligati a fermarci qui nelle informazioni che diamo. Nel frattempo, allora mi si chiede se abbiamo informazioni su un eventuale vaccino prodotto da Cuba. Va bene, allora diamo un'anticipazione di quello che avviene nella ricerca a Cuba, farmaci, vaccini e prevenzione. Parleremo giovedì questo a 37.2 attorno alle 11 con l'intervista a Franco Cavalli, uno dei più famosi oncologi, è svizzero lui, oncologi del mondo, fino a un anno fa presidente dell'Associazione Mondiale degli Oncologi che è appena tornato da Cuba. Quindi lì faremo il punto. Io adesso non ho notizie aggiornate, è inutile che io anticipi qualche cosa. Si dice, dato che è reputato un virus estremamente mutevole, ha senso un vaccino fatto di corsa? Ripeto, queste cose le potremo vedere quando avremo i dati. Adesso vorrei rispondere invece ad altre domande che sono arrivate e in particolare rimaniamo nel campo di vaccini. Condividete questa diretta perché, come vedete, diamo tante informazioni difficili da trovare da altre parti, difficili da trovare altre parti. Noi siamo fuori dal mercato, non abbiamo nessun tipo di interesse se non dare le informazioni più corrette possibili. Adesso passiamo a delle domande sul vaccino anti-influenzale, ne sono arrivate tante e mi si chiede chi deve iniettare il vaccino anti-influenzale? L'ho prenotato, ritirato dal mio medico che però dice di non poterlo venire a fare a domicilio. Mia mamma è malata, oncologica, non può andare in ambulatorio. Beh, questa è una decisione che prende il tuo medico. Se vuole, può venire a farlo a domicilio. Non è vietato fare il vaccino anti-influenzale a domicilio. C'è una persona che dice: ho difficoltà a contattare il distretto per poter avere il vaccino a domicilio per mia madre, 93 anni, invalida. L'ufficio relazioni pubbliche non ha mai risposto. E un'altra che dice: ho dovuto andare in Canton Ticino per acquistare il vaccino. Allora, la situazione in Lombardia, qui adesso sto parlando della Lombardia, è veramente disperante. Sapete anche voi che i medici hanno avuto pochissime dosi di vaccino, ogni medico ha stabilito un suo criterio su come scegliere le persone da vaccinare, si stanno attrezzando per fare i vaccini anche l'ATS, ma se la filiera della distribuzione del vaccino, come ha detto un ATS, per ora non può andare oltre, in questo momento si è assolutamente bloccati. Ci sono poi altre domande che invece ci riportano alla vicenda dei tamponi. Sono positive, non so come fare per ottenere il tampone di controllo. L'ATS non risponde e anche privatamente è molto difficile perché alcuni centri privati dicono a chi è positivo, era positivo, di non entrare e lui vorrebbe fare il tampone di uscita. Purtroppo il tampone di uscita in regione Lombardia non viene più realizzato. Nelle altre regioni mi risulta che invece c'è ancora la possibilità quasi dovunque di farlo. La regione Lombardia ha detto chiaramente: noi sui contatti, sui tamponi di uscita non siamo in grado di farlo. E ha detto: coloro che hanno fatto il primo tampone a risultato positivo 21 giorni fa, se nell'ultima settimana sono asintomatici e sono passati 21 giorni, se l'ultima settimana sono asintomatici, possono tornare al lavoro. Questa è purtroppo la situazione che si trasforma in un regalo al privato assolutamente enorme, ovviamente come abbiamo già detto tante e tante altre volte. C'è una domanda sul luogo di lavoro. I contatti stretti di un paziente sospetto Covid-19 devono restare in isolamento fino a esito del tampone dello stesso? Allora, sul lavoro la questione dei contatti funziona in questo modo. Se c'è stato un collega che è positivo, i contatti, non tutta l'azienda, le persone che sono venute con lui in contatto fino a 48 ore prima che manifestasse la sintomatologia, devono stare a casa. Possono rientrare al lavoro se sono asintomatici per 10 giorni e hanno fatto un tampone che risulta negativo. Altrimenti rientrano se sono asintomatici per 14 giorni. A quel punto possono rientrare anche senza aver fatto il tampone, ma devono essere trascorsi 14 giorni di asintomatici. C'è una domanda che interessa i genitori. È vero che i dipendenti pubblici non hanno diritto al congedo per quarantena scolastica del figlio? No, a me risulta che invece possano avere un tempo limitato il congedo per la quarantena scolastica del figlio. Queste informazioni chiedetele al patronato, però questo provvedimento c'è, riguarda quei genitori dove però tutti e due lavorano. Se l'altro è a casa o è disoccupato, allora questa possibilità non c'è. Io per stasera chiudo qua, vi chiedo per favore di far girare il video perché tutta la parte sul vaccino è molto complicata e quindi difficile da riassumere in una mail di risposta. Vi ringrazio molto per l'attenzione e do a tutti appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 21 in diretta su queste pagine Facebook. Vi chiedo di avvisare i vostri conoscenti che non hanno Facebook che da domani pomeriggio sul mio sito vittorioagnonetto.it anche chi non ha Facebook potrà vedere questo video e a tutti coloro che sono interessati, do anche appuntamento a giovedì mattina a 37.2 su Radio Popolare alle 10.37, sapendo che 37.2 si può vedere anche in po si può ascoltare, scusate, in podcast in qualunque momento dal sito di Radio Popolare. Grazie moltissimo per l'attenzione e buona serata a tutte e a tutti.